Quello che avete ascoltato era il brano Woman di René Cherry. Ed eccomi qui a condividere con voi il mio diario delle vacanze. E che vacanze! Da molto tempo desideravo fare un viaggio e da sempre, nel cuore, la voglia di vedere l'America Latina, il mio amore di gioventù. Certo, il mio sogno adolescenziale, quello di fare l'archeologa, mi spingeva verso il Perù, ma la certezza che gli eventi che si susseguono operano una trasformazione veloce del panorama mondiale e nonché i compromessi di coppia hanno fatto sì che la scelta si indirizzasse su Cuba. Durante il volo ho immaginato di andare alla scoperta del popolo e dei luoghi che furono protagonisti della storica rivoluzione castrista. Sebbene mi avessero avvisata, ho purtroppo constatato che la realtà supera sempre in peggio la fantasia e, come si dice a Roma, pensavo che piovesse, ma non che nevicasse. E anche se avevo chiaro il periodo di transizione e di trasformazione che attraversa Cuba, strangolata dall'embargo, schiantata dalla sparizione dell'Unione Sovietica, circondata dal capitalismo imperante, nel mio cuore rimaneva la certezza che, comunque, fossero attuati i fondamentali diritti e che ne fosse garantito il pieno rispetto. Sono lesbica, ma rimango profondamente comunista, di quel comunismo utopico che sempre più spesso fa i conti con la realtà e ne esce spesso battuta. Perché noi, come diceva una vecchia canzone, siamo sempre indietro. Quindi il mio viaggio è stato costellato, in gran parte, dalla disillusione e dal pianto. Per tutto il periodo della mia permanenza cubana non mi ha mai abbandonata la consapevolezza di essere, per loro, la ricca turista, anche se la mia busta paga lo nega mensilmente. Te gusta Cuba? Me gusta mucho. A noi no, mucho trabajo e poco salario. Hai figli? Questa era la prima domanda da parte delle donne, differenti alle italiane, che, come primo impatto, ti domandano «Sei sposata?». Noi, le ricche turiste di Roma, comode e fresche nella Peugeot a noleggio, pur dando passaggi, ci sentivamo male a non poter caricare la folla in attesa ai bordi delle strade. Volevo sotterrarmi quando incrociavamo i loro carri bus, carichi di persone, animali, biciclette. Ho fatto pochissime foto per non offendere la loro dignità. Il mio strazio più grande era sentire la radio, guardare la loro TV, che ti davano l'idea di un socialismo solo virtuale, che nella pratica è una realtà contraddittoria, fatta di tanto lavoro, povertà, arte di arrangiarsi e file interminabili per comprare in dollari oggetti e vestiti firmati. Il mio groppo alla gola? Ascoltare Comandante Che Guevara, cantata tra una salsa e una lambada. Da brava turista lesbica, avevo cercato di informarmi sui luoghi frequentati dalle mie simili. Purtroppo non ne ho incontrata nessuna. Cenando in un paladar di Playa Siboney, ho invece conosciuto Paloma, e gli ultimi giorni si sono trasformati in un fitto confronto italo-spagnolo sulle realtà in cui viviamo, da lesbiche e gay. È stata dura far capire, anche a grandi linee, a lui, frocio cubano, il mio essere separatista. È già complicato capirsi con le altre lesbiche italiane. Ma proprio nel parlarci è scattata la mia ribellione di fronte al regime cubano, che non mi permette di inviare le pubblicazioni gay a Paloma perché, contenendo foto di nudi maschili, può significare arresto per lui in quanto possessore di materiale pornografico, ma lo stesso regime non fa nulla per eliminare il turismo sessuale e lascia che giovani donne cubane si accompagnino ad orribili, lascivi e schifosi maschi stranieri. Addio Cuba, addio sogno utopico, addio c'è mito della mia giovinezza, arrivederci donne e gay cubani. La realtà è comunque lotta continua verso la libertà e la speranza nel cambiamento della mia e della vostra vita ci vedrà ancora insieme. Guantanamera, tierra, quiero yo mi suerte allá, con los pobres de la tierra. Appuntamenti. Venerdì 18 settembre si è svolto a Torino presso la Camera del Lavoro il seminario Orientamento sessuale ed identità di genere, lavoro e sindacato. Lavoratori e lavoratrici omosessuali, transessuali, verso il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza in Europa, organizzato dallo sportello gay della CGIL. Dal 1 al 21 ottobre, al Teatro Colosseo, via Capodafrica 5A, a Roma, andrà in scena Peg e Grace, Dos Lesbos, di Terry Baum e Caroline Meyers. Lo spettacolo ha avuto un grande successo alla rassegna Garofano Verde nel luglio scorso a Roma. Dal 28 ottobre al 1 novembre a Parigi si svolgerà il 10° Festival del Cinema Lesbico Cannes Les Lesbiennes se font du cinéma. Ed ora le ultime dalla Casa Internazionale della Donna di Roma. Finite le sospirate vacanze, ci siamo trovate immediatamente a dover impiegare tempo ed energie nella ormai tediosa faccenda Buon Pastore Comune. Coloro che ci seguono conoscono già le puntate precedenti. Attualmente la situazione è che, dalla prima settimana di settembre, noi del Centro Femminista Separatista siamo state spostate in una grande stanza. Qui, circondati di scatoloni in cui sono racchiusi gli archivi lesbici, l'intera biblioteca del centro documentazione e tutto il materiale raccolto in 13 anni di attività del centro femminista separatista, continuiamo a riunirci il lunedì dalle 20:30 in poi. Il luogo non è vivibile, non ha finestre, nel senso che non c'ha vetri alle finestre, e non ha riscaldamento. Non è quindi adatto per accogliere le altre donne. Comunque, coloro che volessero mettersi in contatto con noi possono farlo tramite il telefono al 68 64 201 oppure venendo lunedì, ricordando però che l'entrata del centro è ora in via della Lungara 19. Per la fine di ottobre è previsto lo spostamento di tutti i gruppi del Centro Femminista Separatista e dell'AFI presso l'ex ristorante da Benito, che è in fase di ristrutturazione. E faremo in ottobre anche un'assemblea generale per fare insieme il punto della situazione e decidere le iniziative future. Ciao, sono Pina e un bel ritrovate a tutte. Vi informo che il brano che abbiamo appena ascoltato è Maureen di Sade. Inoltre vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista di Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Poco fa Cristina vi ha parlato del suo viaggio a Cuba. Invece, nel nostro viaggio in Turchia quest'estate, abbiamo incontrato Birsen, una donna turca ex attivista femminista, la quale ci raccontava della condizione delle donne nel suo paese e più lei parlava, più ci convincevamo della nostra fortuna ad essere nate in Italia. Questo nostro convincimento è durato purtroppo poco, e cioè sino a quando, tornate nel nostro paese, non ci siamo calate nella realtà di tutti i giorni. Realtà fatta di violenze quotidiane cui sono sottoposte le donne. Basta leggere i giornali per rendersi conto che neanche più nei posti dove dovrebbero garantirti il diritto alla salute e quindi alla vita si è più sicure. Infatti, apprendiamo dai quotidiani che un medico del CTO ha violentato una paziente, stordendola prima con un calmante e, quel che è peggio, pare che costui fosse recidivo, ma la direzione del nosocomio in passato non ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti nei confronti del bruto. Solo oggi, dopo l'ennesimo tentativo, anche questo andato a buon fine, i responsabili del CTO si sono decisi a sospendere il medico dal servizio. Nello stesso periodo, un capo sala dell'ospedale San Giovanni ha tentato di stuprare una donna che si era rivolta a lui, in quanto suo conoscente, perché la facilitasse ad avere un'immediata visita ortopedica per insopportabili dolori alla schiena. Da notare come, in questa società classista, si sia consumato un abuso negli abusi. Infatti, del caposala sappiamo nome e cognome, mentre il medico ci risulta ancora un illustre sconosciuto. Sempre dai giornali apprendiamo della donna ricoverata nella clinica psichiatrica del Policlinico Umberto I e costretta per un paio di mesi a subire violenza da due infermieri. Questi sono soltanto alcuni degli episodi di violenza subiti dalle donne nel corso di questi mesi estivi e che forse, proprio perché avvenuti negli ospedali, la stampa vi ha dato maggiore risalto. Di tutti quegli altri siamo state costrette a leggere tra filetti di poche righe su quegli stessi quotidiani dove si dava gran risalto all'argomento che sembra interessare maggiormente gli italiani in questo periodo. Parliamo naturalmente della questione dell'antidoping nel calcio. Questo problema, sì, è proprio un problema, visto che si è scomodato perfino il governo, nella persona del vicepresidente del Consiglio Veltroni, a dire la sua, ha occupato ed occupa pagine intere di quotidiani. Si sa, il calcio è un business, ruotano miliardi attorno ad essi, quindi è giusto che il governo se ne occupi. Fa parte dei suoi compiti istituzionali. L'economia è importante per il nostro paese, cosiddetto civile. Quindi ben vengano i dibattiti, le dispute, le diatribe intorno al calcio, quel calcio seguito soprattutto da uomini, da quegli stessi uomini che ogni domenica agli stadi obbligano le forze dell'ordine ad uno spiegamento non indifferente di mezzi e persone affinché non si verifichino disordini, ma soprattutto violenze. Le stesse violenze che sono costrette a subire centinaia, migliaia di donne. Ma si sa, le donne non fanno notizia, per gli stessi giornalisti che dovrebbero porre all'attenzione dell'opinione pubblica i delitti più esacrabili di cui si macchiano i signori uomini nei confronti delle donne. Ci piacerebbe proporre al governo di utilizzare lo stesso spiegamento di forze dell'ordine a difesa dei diritti più elementari che la Costituzione sancisce e che ogni Stato dovrebbe garantire per essere degno di ritenersi civile. Bir tanem ağlama. Dopo aver ascoltato Canum Sin di Nalan, voglio parlarvi di Né più né meno. No, non è una rivista di culinaria, neanche una pubblicazione enciclopedica, neppure un bollettino salutista. Ma allora è forse un foglio di notizie circoscrizionali? Eh no, care mie. Prendo gli occhiali per vedere meglio. Penso di essere stressata. Forse è solo uno scherzo. No, no, è proprio vero. Né più né meno. È il periodico di informazione e aggiornamento della Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna. Beh, lasciatemelo dire. Già il titolo è stato per me come un pugno nello stomaco. Sì, è vero che la Commissione è formata da donne provenienti da aree politiche istituzionali, le più disparate. E infatti, nell'ultima pagina sono elencati i nomi di tutte le facenti parti della Commissione. Abbiamo la musicologa, la filosofa, le sindacaliste, le politiche, la suora, la storica, la cristiana, la comunista, la leghista, la cattolica, la e così via. Penso che, comunque, un po' di autorevolezza, autostima e di ottimismo, il che non guasta mai, nel titolo del proprio periodico si poteva pure metterlo e chiamarlo, che so io, almeno di tutto e di più, che sicuramente avrebbe dato alla lettrice un impatto speranzoso e fiducioso pensando all'uso statale fatto con le tasse che paghiamo. Vabbè, cara Commissione, capisco, specie dopo aver letto la tabella riassuntiva del vostro operato da gennaio a giugno di questo 1998, del quale darò ora un piccolo assaggio alle ascoltatrici sulle iniziative svolte. Incontro con la squadra nazionale femminile di pallanuoto. Questa è stata premiata alla Commissione per la medaglia d'oro conquistata nei mondiali australiani. Incontro con la Commissione Parità regionale. Seminari sulla maternità. E leggiamo pure che alcune di queste iniziative sono state fatte all'estero e mi viene da pensare che molte della Commissione vi ci siano recate. Ma a spese loro? Non credo. Inoltre, leggendo lo speciale che ho sotto mano, dedicato interamente alla maternità, non leggo una parola sull'inseminazione, non che a me interessi, ma a molte altre lesbiche sì, e se tanto mi dà tanto. Il mio sguardo si rivolge nuovamente alla tabella riassuntiva del vostro operato annuale e non vedo iniziative sul fronte della disoccupazione e del lavoro precario femminile, non vedo manifestazioni contro il sessismo e la violenza imperante nel nostro paese, nessuna campagna contro l'uso sessista della lingua e delle immagini. Permettetemi un'altra considerazione. Anche se ho ben chiaro che non abbiamo la stessa visione di cambiamento del mondo, sono certa che voi della Commissione abbiate occhi per vedere. E di certo non passavano inosservati quei grandi manifesti per l'uso delle cinture di sicurezza, a cura, niente po' di meno, che del Ministero dei Trasporti. Pagati tra l'altro anche queste alle nostre buste paga. Altro pugno nello stomaco, vedere l'immagine di quel manifesto e ancor di più leggerne il testo. Per fortuna abbiamo una commissione per le pari opportunità, ma opportunità per chi? E allora mi vengono in mente alcuni titoli, penso, ancora più consoni per il vostro periodico. Che ne dite di poco e niente? O come se niente fosse? Tira a campà, canta che ti passa. Per il momento mandiamo un po' di musica, ma noi, care donne della commissione parità, sappiate che non passa. Poi voglia! Vogliamo dedicare il prossimo brano musicale a Semira Adamu, ventenne nigeriana uccisa dalla polizia belga il 22 settembre scorso. Per 5 volte Semira era riuscita a sottrarsi all'espulsione. Arrivata a Bruxelles dal Togo, lì doveva essere rimandata perché il Consiglio di Stato aveva respinto la sua domanda di asilo. Non correva nessun pericolo. Il fatto che fosse destinata dalla sua famiglia a sposare un vecchio senza il suo consenso non era considerato un pericolo. Sicuramente in Togo non sarebbe morta, ma avrebbe perso la sua vita. Che vita sarebbe mai stata quella, infatti? Non si saprà mai, visto che l'hanno ammazzata. Per inciso, nel civilissimo Belgio, sede tra l'altro del Parlamento europeo, nonché patria del pedofilo Ducré, la polizia è autorizzata a colpire al ventre per far sedere gli espulsi, far prendere a forza pillole perché non urlino, schiacciare un cuscino in faccia perché non protestino. Ma che bello, siamo in Europa. Yeah.